sia stato inutile stare insieme a te. Ok, te ne vai. Decisione discutibile, ma sì, solo sai. Almeno resta qui per questa sera. Quel sorriso che ha già deciso, quel sorriso già una volta mi ha aperto il paradiso. Si dice che per ogni uomo c'è un'altra come me, e al posto mio quindi tu troverai qualcun'altra, uguale no, non credo io. Ma questa volta abbassi gli occhi e dici: noi resteremo sempre buoni amici. Ma quali buoni amici maledetti? Io un amico lo perdono, mentre te ti amo. Sembrarti anche banale, ma è un istinto naturale. E c'è una cosa che io non ti ho detto mai: i miei problemi senza te si chiamano guai. Ed è per questo che ti vedo fare il duro in mezzo al mondo per sentirti più sicuro. Sicuro.